Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Oggi Destini incrociati è in America al seguito della brillante carriera di due grandi attori di Hollywood. Parleremo di passione che diventa professione e di amicizia che fa da volano. Parleremo della recitazione come necessità di una nazione che trova nel volto, nelle movenze e nella biografia di due uomini la sua massima espressione. Questa è la storia di un'amicizia che muove i suoi primi passi nella provincia americana per poi incrociarsi a Hollywood. Il destino oggi è quello che ha permesso a due amici di condividere tutto sin da subito. La passione per il teatro, la dedizione per il proprio paese, anche se su due posizioni politiche differenti, a volte persino le donne. L'amicizia è l'escamotage che il destino ha trovato per permettere a uno dei due di riconoscere il proprio talento e all'altro di seguire la propria strada con un compagno di fianco. Ma partiamo dalla fine. Thank you. Grazie. I have a lot of pride. Sono molto orgoglioso di essere qui per una ragione speciale, per un uomo speciale. Il suo nome è Henry Fonda. His name is Henry Fonda. As an actor, come attore, lui è l'espressione della professionalità e della dedizione, qualcosa di cui andare fieri e da cui prendere esempio. I suoi personaggi sono il riflesso della natura americana, il meglio di quello che noi vorremmo essere. La sua capacità e la sua integrità ci hanno mostrato il nostro paese nelle sue diverse sfaccettature, da Abramo Lincoln a Tom Joad a Mr. Roberts. E ogni volta impariamo a conoscere un po' di più noi stessi e ci sentiamo un po' meglio. È il 1981. Robert Redford sta consegnando l'Oscar alla carriera a Henry Fonda. Henry Fonda è il suo primo Oscar. Henry avanza sul palco reggendosi con un bastone. Ha ormai 76 anni. Nella sala c'è una standing ovation. Un attore come lui che ha saputo rappresentare l'America, come ha ricordato Robert Redford, merita anche questo. Ci sono tutti gli amici, i registi coi quali ha lavorato, la famiglia, tutta Hollywood è lì per acclamarlo. Henry, you have honored us over the years with your work, and it pleases us here tonight to be able to honor you with our appreciation and this special Oscar. Thank you, Robert. Thank you. When I realized and I... Quando ho capito, ripensando alla mia vita, che ho lavorato nel cinema per 46 anni, mi sono sentito un uomo molto fortunato. Non solo perché sono sopravvissuto, ma perché negli anni ho avuto l'opportunità di lavorare con i migliori produttori, i migliori registi, i migliori sceneggiatori e attori del cinema, ed è stato davvero un grande onore. Questo Oscar rappresenta il massimo di una carriera, e sono molto orgoglioso e riconoscente all'Academy. Grazie davvero. La riconoscenza all'Academy per averlo onorato con un premio alla carriera è sincera. Pur avendo all'attivo 86 film, nessun ruolo gli è valso mai la statuetta e mentre ritira questa, sta girando quello che sarà il suo ultimo film. Henry infatti è già ammalato. Si regge a fatica in piedi, ma nonostante questo, quando gli propongono di girare sul Lago Dorato al fianco della figlia Jane e di Katharine Hepburn, accetta. Ironia della sorte, l'anno successivo arriverà il tanto atteso Oscar come migliore attore, ma a ritirarlo su quello stesso palco non potrà esserci lui, ormai infermo a letto, ma la figlia Jane. E pensare che quel ruolo era stato proposto a un altro attore, l'amico di sempre, che a Henry deve in un certo senso la spinta a diventare anch'egli un attore di professione. Henry Fonda nasce nel 1905 in Nebraska. I Fonda emigrano da Genova negli Stati Uniti ancora nel 1600. Il padre fa lo stampatore. Henry, fin da bambino, va a dare una mano in cambio di una piccola mancia. Mancia che spende subito per correre nel cinematografo del paese a vedere Charlie Chaplin o William Surrey Hart, il primo attore statunitense di film western del periodo del muto. Sono le prime immagini del cinema che gli rimarranno impresse per sempre. La sua infanzia è piena di eventi che si imprimono nella sua mente. Nel 1910 la madre lo sveglia nel cuore della notte per mostrargli nel cielo la cometa di Halley e gli spiega che un evento come quello si verifica ogni 76 anni circa. Molto tempo, dirà lei, non possiamo perdercelo. Henry ricorderà sempre quella notte, come ricorderà quando il padre, all'età di 13 anni, gli mostrò da dietro la tenda del loro negozio uomini con torce accese e pistole che intimidivano un uomo nero accusato ingiustamente di furto. Others were not so easily controlled. A secret organization, the Ku Klux Klan, spread its poisonous influence throughout a large part of the country. Henry cresce a Omaha, la stessa città dove nel 1925 nascerà anche Malcolm X. La lotta tra neri e bianchi è accesissima e quel primo esempio di ingiustizia mostratagli dal padre sarà sempre davanti ai suoi occhi nelle scelte future. A scuola se la cava bene, vuole fare lo scrittore. Si iscrive così all'Università del Minnesota per studiare giornalismo. Comincia a scrivere piccoli racconti, si sperimenta nella scrittura, ma ha la sensazione che quello che vuole esprimere non si possa trasferire attraverso le parole, almeno non quelle scritte da lui. Torna quindi a casa per l'estate e comincia a riflettere sul suo futuro. Quell'estate un'amica di sua madre, Dodie Brando, che ha appena avuto un figlio di nome Marlon, vede in lui delle potenzialità d'attore e così cerca di coinvolgerlo in un suo progetto. Lei è la fondatrice della Omaha Playhouse Community, una compagnia teatrale amatoriale. Nell'estate del 1925 hanno bisogno di un giovane con le caratteristiche di Henry per la commedia You and I. A Henry, tutto sommato, sembra una buona idea e non avendo di meglio da fare, accetta. Il padre non è molto d'accordo. Per 6 settimane non parlerà col figlio, finché nel giornale del paese comparirà un articolo sulla performance di Henry. A chi serve Green Hunter quando la nostra città ha Henry Fonda? L'iperbole del paragone con un grande attore di Broadway come Green Hunter è una di quelle cose che si concede a un giornale di provincia. Fatto sta che dopo quell'articolo il padre si ammorbidisce nei confronti delle scelte del figlio e per Henry la strada verso il suo futuro si fa più chiara. Scoperto ormai che tutto quello che vuole fare è recitare, Henry prosegue le sue sperimentazioni a teatro e comincia persino a guadagnarci dei soldi. Decide di andare alla ricerca della sua fortuna. Abbandona l'università, ma non l'ambiente universitario. Infatti, nel 1928, gli viene proposto da un vecchio amico di Omaha, Bernie Hanningen, diplomato ad Harvard, di entrare a far parte della University Players. La University Players è una compagnia teatrale concepita come una collaborazione tra studenti di Princeton, di Harvard e di Yale, con sede in un cinema a Falmouth West a Cape Cod, nel Massachusetts. Sono tutti giovani aspiranti attori con l'energia dei 20 anni e grazie a questa energia si sono conquistati una discreta fama. Tra questi c'è una giovane attrice, Margaret Sullivan, con la quale Henry, o Hank come amava chiamarlo lei e dopo da allora tutti gli amici, stringe un'amicizia particolare. Ma l'amicizia sfocia presto in amore, anche se un po' tormentato, finché il giorno di Natale del 1931 decidono di sposarsi. Sono gli anni della Grande Depressione. L'America si prepara ad accogliere un nuovo presidente, Franklin Delano Roosevelt, che darà inizio al New Deal e all'uscita dagli anni bui. Today we stand committed to the proposition that freedom is no half and half affair. È il presidente che accompagnerà Henry Fonda e l'altro protagonista di oggi per un pezzo della loro carriera da attori fino all'appuntamento da protagonisti nella storia del loro paese al quale entrambi non vogliono mancare, la Seconda Guerra Mondiale. Ma ritorniamo al 1932. All'interno della compagnia arriva un giovane neolaureato in architettura che a causa della crisi non ha ancora deciso quale strada prendere nella vita. Il giovane neolaureato è James Stewart. James Stewart. La depressione è al suo culmine e pensare di trovare un impiego come architetto non è facile. L'idea è quella di tornare a casa e lavorare nell'azienda del padre vicino a Pittsburgh, oppure rimanere a Princeton per fare un corso di specializzazione, per il quale ha già ottenuto la borsa di studio. Ora però è estate e decide di trascorrere un po' di tempo a Falmouth in compagnia degli amici della University Players. Un giusto intermezzo prima di riprendere il suo cammino. Le parole del neoeletto presidente degli Stati Uniti. That the only thing we have to fear is fear itself. Sembrano riecheggiare nella mente di James Stewart quando, una volta entrato nella compagnia teatrale, si fa convincere a non proseguire la strada del professionista che costruisce palazzi, ma quella del dilettante che tenta di costruire personaggi. L'ambiente è certamente allettante. La presenza di gente giovane, piena di aspettative per il futuro, in un momento in cui il futuro sembra sfuggire di mano, aiuta certamente James a non avere paura. E sarà proprio qui che farà l'incontro che servirà a gettare le basi per la sua svolta, quello con Henry Fonda. Henry, col quale sente di avere molte affinità, ha già deciso che vuole fare l'attore. Ogni scelta è fatta in quella direzione per Hank. L'università è solo un ricordo ormai per lui, mentre per James è ancora tutto da decidere. Eppure si vuole buttare. Quando gli propongono una particina dove deve suonare la fisarmonica, il suo strumento preferito, accetta subito. Sembra quasi di sentirlo in La vita è meravigliosa. Io non sono un campione. Tanto meno io. Allora ci buttiamo. La sua storia personale può servire a capire meglio il giovane che si trova di fronte al bivio della sua vita quel 1932. In un primo momento sembra essere solo quello di seguire un amico, mentre poi si rivelerà essere la scelta del destino. James Stewart nasce nella città di Indiana, in Pennsylvania, nel 1908 in una famiglia tradizionalista, sana, bene educata. Il nonno, agli inizi dell'Ottocento, apre il negozio di ferramenta della città. Negli anni l'attività diventa sempre più proficua, tanto che anche il padre di James, Alexander, può andare a Princeton a studiare e i suoi figli frequentano scuole private. Alexander ha una gestione della ferramenta non molto ortodossa, il che fa pensare che economicamente le cose non andassero così male. A volte accetta pagamenti in beni piuttosto che in contanti. Tra questi, nei ricordi di James, c'è un pitone di 4 metri che viene messo nella vetrina del negozio e alimentato da topi morti proprio da lui. Più tardi ci metterà anche una fisarmonica, oggetto che si rivelerà molto importante per gli inizi della sua carriera d'attore. È infatti grazie alla sua abilità nel suonare la fisarmonica che verrà scelto dagli University Players, dove incontrerà Henry Fonda. In una delle sue ultime apparizioni in pubblico durante uno show televisivo alla BBC, la moglie gliela farà portare in studio e con sua grande prontezza di spirito Jimmy improvviserà un pezzo in ricordo dei vecchi tempi. Here I am. L'atmosfera a casa Stewart è informale, vivace, chiassosa, anche se tutto è assolutamente radicato nei valori più tradizionali. Sono tutti assidui frequentatori della chiesa presbiteriana, nonché ferventi patrioti con una lunga carriera militare alle spalle. Il trisnonno di Stewart ha combattuto nella rivoluzione e, per usare le parole di un amico d'infanzia, Bill Moorhead, c'era stato uno Stewart arruolato in ogni guerra americana. Non importava se erano troppo anziani o sottopeso, in qualche modo riuscivano sempre a servire il loro paese. Quando Alexander, il padre di Jimmy, si arruola all'età di 46 anni per combattere nella Prima Guerra Mondiale, su richiesta del figlio gli porta una piccola uniforme in miniatura. Un'uniforme come quella che indosserà quando nel 1936 girerà Born to Dance, al fianco di Eleanor Powell, dove lo stesso Stewart canterà una canzone di Cole Porter, Easy to Love. So grand that the game, so carefree together, that it does seem a shame that you can't see your future with me, 'cause you'd be all so easy to love. La famiglia ha un'influenza notevole nella vita di James Stewart. Anche se alla fine del liceo avrebbe preferito l'Accademia Navale di Annapolis, Jimmy decide di seguire l'indicazione del padre e va a Princeton. In realtà la scelta si è rivelata vincente, pur non trovando a Princeton la sua strada accademica. Certo è che incontrerà proprio lì il suo destino. Negli anni dell'università sono le attività extrascolastiche a interessarlo particolarmente. La sua figura lampanata gli impedisce di essere un bravo giocatore di football e così si dedica al teatro. La sua abilità con la fisarmonica lo aiuta a ottenere piccole parti, finché non viene notato da uno dei fondatori della University Players, Joshua Logan, e gli viene chiesto di unirsi al gruppo. Quando Logan gli chiederà se avesse mai pensato di fare l'attore di professione, James ha un moto di stizza. Forse pensa alle aspettative del padre, a non disattenderle dopo che si è laureato con ottimi voti. Fare l'attore è quanto di più distante dalle sue intenzioni. Eppure l'amicizia con Henry, che ha già archiviato sia la carriera scolastica che il conflitto col padre, sembra cominciare a scalfire un po' della sua intransigenza. Nella commedia teatrale a lui più cara, Harvey, si trovano parole che si possono avvicinare alla conversione che sta avvenendo in lui. Vedete, anni fa, mia madre era solita dirmi, diceva, in questo mondo, Elwood, devi essere, mi ha chiamato sempre Elwood, in questo mondo, Elwood, devi essere o molto astuto o molto amabile. Io preferivo l'astuzia, ma consiglio l'amabilità. Astuto sarebbe stato tornare a casa, nella testa di James Stewart, e forse anche in quella del padre. Ma l'amabilità della compagnia e soprattutto quella dell'amico Henry giocano un ruolo decisivo, e il ritorno a casa viene continuamente rimandato. Dopo uno dei debutti a Broadway, dove James riesce a far crollare il teatro per gli applausi, la compagnia teatrale University Players si scioglie. Lui e l'amico decidono di prendere un appartamento insieme. È il 1933. Per Henry, il matrimonio con Margaret Sullivan è finito da poco e così ha bisogno del calore degli amici. Prendono in affitto un piccolo appartamento all'interno di un palazzo dove ci sono solo prostitute e hanno come vicino di casa il pericoloso gangster Legs Diamonds. Fonda, in un'intervista, racconterà alcune scene legate a quel periodo. Siamo seduti lì a bere una birra o due, dopo il teatro, e a un certo punto la porta si apre. Ci voltiamo e tre tipi che sembrano appena usciti da un film di gangster fanno la loro comparsa. Cappotti Chesterfield con colletti di velluto nero, capelli borsalino ben calati in testa e mani nelle tasche. Entrano, attraversano la camera da letto, si stringono nelle spalle e se ne vanno, senza dire nemmeno una parola. L'amicizia tra Henry e James si sta consolidando. Henry è l'attore con più esperienza, che però stenta a trovare nuovi ruoli, mentre James, con la sua nonchalance da chi l'attore non lo vuole fare, almeno non ancora, raramente rimane disoccupato. Ed ecco l'occasione. Henry decide di trasferirsi a Hollywood e, come è naturale che sia, chiede all'amico James se lo vuole seguire. Ormai l'unica architettura che interessa James è quella della trama in una pièce teatrale. Non vede perché opporsi al richiamo di un futuro diverso da quello che si era immaginato e così accetta. Hollywood accoglie i due amici restituendo al mondo due star. Henry Fonda, nel 1977, durante una delle tante feste in onore di Jimmy, ricorda così quel periodo. Jimmy ed io siamo arrivati ad Hollywood 43 anni fa. Due giovani attori che cercavano di fare del loro meglio. Tutti e due così magri che sembravamo due stecchini. Insieme proiettavamo un'ombra sola. Per ovviare alla magrezza, un giorno decidono, su consiglio di un conoscente, di mangiare zabaione e brandy per colazione. Quel ricordo è uno dei più divertenti per Fonda, quando il brandy ha cominciato a diventare l'ingrediente principale della colazione e così alle 11 del mattino erano già ubriachi. Ma la loro carriera è avviata, soprattutto quella di Jimmy, che, arrivato a Hollywood senza aspettative, si trova quasi subito a fare un provino per la MGM, dove c'è un attore appena rilevato dalla Fox che devono lanciare, Spencer Tracy. James, nel 1935, viene preso per il film Ultime Notizie, nella parte di un reporter di nome Shorty. Non è certo il ruolo per il quale lo si ricorda, ma la scalata della MGM si può dire cominci da lì. Sotto contratto per la stessa casa di produzione c'è Greta Garbo, per la quale i due giovani amici ovviamente hanno un debole. E se nella prima casa condivisa a Broadway c'era un gangster come vicino di casa, ora c'è proprio lei, la divina, anche se si nasconde dietro una cancellata di 3 metri. Tutto sembra dire ai nostri due protagonisti che sono nel luogo giusto, che il momento magico della vita è arrivato. Come recita la loro attrice preferita, nonché vicina di casa, proprio quell'anno, in Anna Karenina. Sei in un momento magico della vita, quel beato momento in cui è finita l'infanzia e il futuro appare chiaro e invitante. Quello stesso anno anche per Fonda il futuro di attore è invitante e prende la strada del cinema. Notato a teatro dalla 20th Century Fox, viene chiamato a fare lo stesso ruolo che era stato suo a Broadway, nella versione cinematografica de Il contadino prende moglie. La sua infanzia e la sua educazione nel Nebraska lo rendono comprensibile a tutti gli americani e lo mantengono vicino al cuore della nazione, con quel suo dualismo di ragazzo di campagna, ragazzo di città, già evidente in questo primo film. L'immedesimazione che l'America cerca nei volti del suo cinema e che troverà anche nell'amico James Stewart. L'amicizia ha reso possibile che il sogno dell'uno diventasse anche il sogno dell'altro, rispondendo all'esigenza di una nazione. L'America ha sacrificato un architetto per avere due grandi star. Destini incrociati. Destini incrociati oggi celebra l'amicizia. Sono gli anni 30 e dopo che uno sconosciuto Henry Fonda ha chiesto a un amico, un altrettanto sconosciuto James Stewart, di seguirlo a Hollywood in cerca di fortuna, nascono due delle star internazionali più acclamate. Fare l'attore era l'ultimo dei pensieri per James Stewart, ma l'amicizia con Henry lo porta a Hollywood a sperimentarsi nel ruolo della star. A metà degli anni 30 comincia la sua scalata all'Olimpo della MGM, che dopo avergli dato il primo piccolo ruolo in un film con Spencer Tracy, lo richiama per il film Gelosia al fianco di Clark Gable e Myrna Loy. Poi in La Provinciale e infine in Speed come protagonista. A rinforzare il suo posto alla MGM, una delle amiche del periodo dell'università, un'altra attrice conosciuta nella compagnia teatrale degli University Players, che lo vuole al suo fianco come co-protagonista nel suo quinto film, Next Time We Love. Lei è Margaret Sullivan, la prima ex moglie dell'amico Henry. Margaret è già acclamata come attrice, anche se come donna ha la fama di essere un po' capricciosa, fama forse anche dovuta ai suoi tre matrimoni falliti, quello con Fonda, quello con il regista William Wyler e poi con l'agente Leland Hayward. Anche se il film non ha un gran successo, la complicità che si crea sul set tra i due permette a Stewart di mostrare le sue doti d'attore e di ottenere nuove parti. Girerà altre tre pellicole con lei. Come ricorda lui, lavorare in grandi studios a quel tempo significa anche accettare parti sbagliate. Quando lavori sotto contratto con uno dei più grandi studios, significa lavorare tutto il tempo. Hai piccole e insignificanti parti in grandi film, anche se forse vorresti grandi ruoli in piccoli e insignificanti film. E tu devi sperimentare qualunque tipo di ruolo. Beh, una volta sono stato chiamato per fare il ruolo di un cinese, per La Buona Terra. Un uomo di nome Jack, il più famoso dei truccatori, mi disegnò gli occhi, mi truccò la testa, mi mise una coda. Dovevo fare un provino con polmoni, dovevo camminare lungo un percorso. La prima cosa che disse Polmoni fu: «Forse è troppo grande». Quello che fecero fu scavare una trincea e mi fecero camminare dentro. Non ho avuto la parte. L'hanno data ad un cinese. Margaret Sullivan, però, non è solo un'amica. Almeno così sembra da come si muovono insieme sul set. Viene certamente da pensare che le affinità con l'amico Henry siano anche nella scelta delle partner. La carriera di Stewart è così avviata. Lui ha proprio quello di cui il cinema ha bisogno, la genuinità, la trasparenza. È un attore sincero e pulito, forse proprio perché lui, l'attore, non lo voleva fare. In realtà lui fa se stesso. Anche quando nel 1936, in Easy to Love, al fianco di Eleanor Powell, si esibisce in numeri da tip-tap e canta canzoni, potendo esprimere tutto il suo patriottismo nella parte dell'ufficiale Ted Baker. Come cantante la produzione pensa di doppiarlo con la voce di Cole Porter, ma quando lo sentono pensano sia perfetto, anche se lui non è propriamente d'accordo. Ma quella canzone è così alta, e così ho chiesto a Cole Porter: puoi scendere di una nota? E lui mi ha detto di no, ma la mia estensione... Io non potevo cantare. Quel primo film, concepito essenzialmente come una passerella per l'affascinante e slanciata ballerina Eleanor Powell, rimane uno dei primi film dove James si impone al pubblico. Henry, durante una festa dedicata a lui, ne mostrerà un pezzo e, con la confidenza che si riserva solo a un amico, parlerà così della sua performance canora. Bene, abbiamo scoperto che c'è qualcosa di più magro di Jimmy Stewart. La sua voce! La versatilità di Jimmy, come continuano a chiamarlo tutti, anche per via della sua capacità di sembrare affabile, raggiungibile, quasi un amico d'infanzia, lo porta a farsi amare dal grande pubblico. Nel 1938 è la volta di un film al fianco di Ginger Rogers in Una donna vivace. Ginger Rogers e James Stewart, dopo il film, hanno una relazione. Nella sua biografia, la Rogers racconta di quel periodo quando uscivano con l'altra coppia formata da Lucille Ball e dall'amico di sempre, Henry Fonda, col quale James condivideva l'appartamento. Una sera, dopo una cena romantica da Barney's, i ragazzi ci portarono nel loro appartamento. Sembrava tutto molto romantico e le luci vennero abbassate e c'era una musica molto lenta di sottofondo. Prima che io e Lucy potessimo capire cosa stesse succedendo, venimmo condotte a passo di danza verso la cucina a lavare i piatti di un'intera settimana. Beh, e comunque erano due uomini meravigliosi che non ci si sognerebbe nemmeno di incontrare. Due uomini che amavano le donne. L'immagine che si ha di James Stewart non è tanto quella del seduttore, ma quella dell'innamorato. Il fascino che esercita è quello su donne che decidono in un certo senso di adottarlo. La sua immagine di uomo ingenuo e campagnolo si vede anche nel film che segue, al fianco dell'amica e amante Margaret Sullivan. The Shopworn Angel, film che lo porta all'attenzione del regista che sarà fondamentale nella sua vita artistica, Frank Capra. Con il primo film insieme, Mr. Smith va a Washington, la sua carriera decolla definitivamente. Smith è senatore, e anche se non le va è senatore, e qui siamo a Washington. Come un dittatore, Joe. E i miei metodi non vanno a Washington? Eppure a lei hanno servito, no? No, Jim, non si tratta di me, lui è diverso, è onesto. Mr. Smith va a Washington è la quintessenza di Stewart, il sano ragazzo di provincia, americano al 100%, fortemente legato alla sua famiglia, la personificazione stessa dell'onestà. Stewart è così, e non lo nasconde anche in quel suo modo di recitare, così esitante, quel suo parlare interrompendosi spesso, come a non sapere cosa dire, in una parola, quel suo essere così naturale, sono il suo marchio di fabbrica, quelle nuance che solo lui ha, come celebra Henry Fonda. Alcune delle qualità speciali di Jimmy che lo rendono unico nel mondo del cinema sono quelle sfumature che appartengono solo a lui e hanno dato vita al mito di James Stewart nei suoi film. The great moments of James Stewart on film. La guerra si sta avvicinando. L'amico Henry, dal canto suo, prosegue la sua carriera. Fa molti film, così come James, ma nel frattempo ha avuto anche il tempo per sposarsi una seconda volta con Francis Ford Seymour e di avere nel 37 la prima figlia, Jane. Mentre Stewart ormai è un'icona, Fonda è la faccia più americana in circolazione. A James viene affidata una missione: riabilitare star femminili presso il pubblico. Da una parte Marlene Dietrich, che gli viene affiancata in Partita d'azzardo, e dall'altra Katharine Hepburn in Scandalo a Filadelfia, che a Stewart vale l'Oscar nel 1940. It gives me enormous pleasure to be able to present this trophy to you, Mr. Stewart, for the best acting in a picture for 1940. That picture was The Philadelphia Story. Quando nel 1939 James incontra Frank Capra, anche Henry incontra il suo regista, John Ford, col quale girerà ben tre film di seguito proprio in quegli anni. Alba di Gloria, dove interpreta Abramo Lincoln, La più grande avventura, il primo film a colori per Ford, e Furore, tratto dal libro di John Steinbeck. La sua interpretazione in Furore è magnifica. gli vale una nomination come migliore attore, ma la statuetta gli viene soffiata dall'amico James Stewart proprio quel 1940 con Scandalo a Filadelfia. Men walking along the railroad tracks, going someplace and there's no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire. Destini incrociati. A Destini Incrociati siamo in America. È il 1940 e due grandi amici nonché colleghi hanno avviato una brillante carriera da attori. Sono Henry Fonda e James Stewart. Da quando Henry ha insistito perché James lo seguisse a Hollywood, sono passati ormai alcuni anni e alcuni film. C'è già persino un Oscar che li ha messi a confronto. Il destino sembra fornire continue occasioni per farli incrociare fuori e dentro il set. La guerra ormai è alle porte. Dopo Scandalo a Filadelfia, che è valso l'Oscar a James Stewart, e Furore, che è valso a Henry Fonda la prima e unica nomination per i successivi 40 anni, i due amici girano altre pellicole. Eppure è il pensiero di servire il loro paese che li impegna maggiormente. Roosevelt, il presidente che fino ad ora è rimasto sullo sfondo dell'America fin dal loro primo incontro, nel 1940 viene rieletto per la terza volta. E l'8 dicembre del 1941, dopo l'attacco di Pearl Harbor, porta gli Stati Uniti in guerra. Vice President, Mr. Speaker, members of the Senate, of the House of Representatives, yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. James si arruola come soldato semplice. Lui è un esperto pilota, così viene assegnato all'aviazione. Dopo un lungo addestramento, nel 1943 arriva la chiamata alle armi. Viene spedito in Inghilterra, dove vi rimarrà i successivi due anni. Quando anche molti anni dopo gli chiederanno qual è stata la più grande esperienza della sua vita, Stewart risponderà la guerra, molto più del grande cinema. Quando torna a Hollywood, ricominciare non è facile. Frank Capra lo vuole vedere per parlargli di una nuova parte per la quale lui sarebbe perfetto in La vita è meravigliosa, film che alla sua uscita non riscuote il successo sperato. James è davvero confuso. Beh, è stato una specie di periodo nebuloso nella mia carriera, ma non sapevo esattamente se le cose che avevo fatto o le cose che stavo facendo funzionassero. Infatti, La vita è meravigliosa non andò molto bene, così il film successivo e quello dopo ancora. La gente non voleva le commedie romantiche. La difficoltà di tornare a fare l'attore dopo l'esperienza bellica si risolve abbastanza in fretta e lo dimostra nella sua eccellente interpretazione nel film La vita è meravigliosa, film che viene totalmente snobbato dall'Academy, probabilmente perché non adatto agli umori del dopoguerra. Una serie di insuccessi portano Jimmy a decidere di tornare in teatro dopo 12 anni con Harvey, la storia di un alcolizzato che immagina di essere sempre accompagnato da un coniglio bianco. Nel frattempo, l'amico di sempre, Fonda, arruolatosi anche lui per servire il suo paese in Marina, torna anche lui al cinema. Riprende contatto con il suo regista, John Ford. Sono gli anni di Strada Infernale e il massacro di Fort Apache. Il western è il genere che meglio di altri si presta a ridare speranze all'America e il volto di Henry Fonda è certamente tra i più rassicuranti. Per lo spettatore l'importante non è conoscere, ma riconoscere. E i due amici in questo sono campioni. Alla fine degli anni 40 per James arriva l'incontro con l'altro regista importante per la sua carriera, Alfred Hitchcock. He sent me the script of the picture Rope. Sì, mi spedì la sceneggiatura di Nodo alla gola, il primo film che feci per lui. Lui passò dagli studios e mi chiese allora cosa ne pensassi. Tutti volevano lavorare con Alfred Hitchcock a quel tempo e per me era lo stesso. È solo l'inizio di una collaborazione che li vede insieme per diverse pellicole. Con Hitchcock girerà La donna che visse due volte, L'uomo che sapeva troppo e La finestra sul cortile al fianco della meravigliosa Grace Kelly. Ma le donne sul set ormai per lo scapolo d'America non sono più un'attrazione, almeno pare. Nel 1949, all'età di 40 anni, Stewart si sposa con Gloria Hetrick McLean, una ricca signora dell'alta società che rivelerà di non essere mai stata gelosa delle attrici con le quali il marito recitava, perché lui non gliene diede mai modo, premuroso come sempre. Baby, won't you hold my hand? Now that kind of makes a fool understand. Just let me know that I'm your man and show. Adesso anche James ha una famiglia. Henry è già alla terza moglie e ha due figli. La carriera di Stewart, costruita per caso, per avere detto sì all'invito dell'amico Fonda nel seguirlo a Hollywood, lui che voleva fare l'architetto, l'aviatore, adesso si ritrova ad essere il James Stewart che tutti conoscono e che Orson Welles celebra così. Una carriera come la tua, Jimmy, è senza tempo. Continua così perché c'è qualcosa che non deve morire mai. Questo è quello che vogliamo continuare a vedere in te, anche quando tutto sarà passato. Voglio usare solo un'immagine. Jimmy Stewart è indelebile. Mentre Henry Fonda sperimenta il maestro del brivido, James incontra John Ford. Se Fonda è stato un ottimo Abramo Lincoln, ora Stewart è alle prese con grandi biografie. Nel Ritorno del campione, dove soffia la parte del protagonista un giovane Ronald Reagan. In L'Aquila solitaria, dove è Lindbergh e può così mettere a frutto tutte le sue conoscenze sul volo. E nella storia di Glenn Miller, per la quale deve prendere lezioni di tromba. Con Winchester 73, anche per James, arriva il vero debutto nel genere western. Ebbene, come ho detto, dopo la guerra tutti pensavano che avessi fatto film non adatti. Così quando tornai sulle scene dopo una pausa, dove avevo fatto del teatro con Harvey, mi mandarono uno script di un western, Winchester 73, che mi diede l'avvio verso quel genere. Pensai in quel momento che se non avessi cominciato a fare western, se non fossi entrato in quella parte del business, avrei fatto un grande errore. Il western è la vera origine del film americano. Ed è proprio in occasione di film western che i due amici avranno l'occasione di lavorare insieme negli anni 60, come per esempio in Non stuzzicate i cowboys che dormono o L'ora della furia. Gli stessi registi, gli stessi generi, la stessa scelta fatta in gioventù, solo sulla base di un'amicizia. Fino al gran finale, come dice ne Il mio nome è nessuno, Terence Hill, a Henry Fonda. Perché vuoi farmi diventare un eroe? Ma lo sei già. Ti manca solo un gran finale. Ti manca l'impresa da leggenda. Il gran finale per Fonda arriverà con l'Oscar come migliore attore, quando accetterà l'invito del regista Mark Riddle nel 1980 di girare la versione cinematografica di Sul lago dorato, una pellicola quasi autobiografica, se non altro per i dialoghi difficili tra lui e la figlia Jane che è al suo fianco. Un ultimo regalo di riconoscenza che Stewart rende all'amico, avendo rifiutato la parte in precedenza. In fondo è stato proprio Fonda a spingerlo in quella direzione. E anche se Henry scherza su James. Jimmy, io e te siamo i sopravvissuti di quella che viene chiamata l'età d'oro di Hollywood. Abbiamo camminato vicino e siamo amici da così tanto tempo che voglio dirti una cosa. Un giorno saremo insieme anche al Museo delle Cere di Hollywood. Il sogno vince sulla realtà, portando la vita di due persone a fondersi continuamente, fino alla fine. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.